Ayo, Zikinika sta locanda, 2001, terra salda, Psycho City, hey, cioccolato. Ayo, Zikinika, ayo, rappa nella testa, 2001, sta locanda, Psycho City, Zikinika la locanda adesso è aperta. Di nuovo al lavoro, frutti d'oro, capoterra. La mia merda, no che non si ferma, perché so che c'è la rapa buona in Sardegna. Legna da ardere pronta per la consegna. Vado a coricarmi quando la gente si sveglia. Aio, anima Zulu, più cuore rosso-blu. Rappresento la gente del sud, me and you. Con la testa su e giù, Zeta crudeo. Benzubo su Miu, tu i benzavo su du. Boh, non dirò su. Fuori è sempre la stessa minestra, sempre meno aria fresca. Troppa carta, pesta. Questa l'inchiesta, per strada sono tutti buoni a niente o è tutta gente esperta, ma il livello resta in percentuale modesta. Noi Campidano ti portiamo rapa onesta, molesta, fuori di testa. La scimmia quando pesta è una brutta bestia. Castia, troppo basca, a menti brisca, il mio punto di vista non si impasta. Tasta sa rapa, aio, terra salda, ascolta e go. Questa è la rapa che do, aio, sulle mani più che puoi. Originale B-Boy, aio, terra salda, ascolta e go. Questa è la rapa che do, aio, sulle mani più che puoi. Originale B-Boy, aio, goppa, positività. La rapa da do, dalla mappa, destra sinistra non si scappa. Si tratta di doppia H, trappola adatta. Isola sarda, la sola targa, che valga. Zikinikas, questo è l'argomento se le garba. La prego salga, non manca nulla. Fortuna e sfiga, per ogni riga. Regolo il patto, sprendo la briga. Regalo al fatto, l'unico patto. Di fatto, d'impatto, compatto, contatto. Mo parto, uno scomparto. Per ogni arto che muovo, tra l'altro un nuovo traguardo più arduo. Guardami negli occhi, reggi lo sguardo Castia. Se non basta, ho istinti più spinti, d'uscinti, scindi, veri o finti. Quindi all'asta gli scleri dei convinti. Distinti, distingui, destini, distanti. Metri che non canti, etiche non etichette. Beppe non smette, riflette a tempo come lancette perfette di un orologio senza cinghiette. Aio, terra salda, ascolta e go. Questa è la rapa che do, aio, sulle mani più che puoi. Originale di voi, aio. Terra salda, ascolta e go. Questa è la rapa che do, aio, sulle mani più che puoi. Originale di voi. Dalle mani, dalle tasche, falle volare in alto. Ondeggia un po' la testa e poi rimbalza sull'asfalto. Aio. All'assalto da Zikinika, terra fertile. Pistola più proiettile, fiero di essere un rettile servente. Rimandato non ripetente. Giustifico i miei mezzi perché sono un combattente. Un piccolo incidente, forse un po' troppo assente. Ripenso un po' al passato ma il morale ne risente. È presente, un taglio netto al vecchio in positivo. Son recidivo, ma spero in quello che coltivo. Mi sbatto giorno e notte in cerca di una soluzione. Sempre in contraddizione, l'istinto che dà merda alla ragione. La condizione in cui mi trovo adesso. E chi pensa che sia tempo perso sbaglia, è lui che ha perso. Un patto con me stesso è molto più di un passatempo. Zikinika sta locanda, attenta a non sbagliare accento. Sardo, zona di mare, rap a modo nostro. Il posto è quello giusto ed io con questo lo dimostro. Un sorso dopo l'altro è già spacciata sa bottiglia. Aio, Tottubari, ricomincia la guerriglia. Aio, terra salda, ascolta e go. Questa è la rapa che do, aio, sulle mani più che puoi. Originale di voi, aio,